24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Buongiorno, eccoci qua alle 6:33 minuti. Siamo pronti anche oggi, cari ascoltatori, ad andare in diretta fino alle 9. Ricordatevi. But please relax. Sempre ovviamente. Please relax. Siamo. Cos'è? Una saracinesca che si alza? Ah, ovviamente sì, se il bar non è aperto non possiamo più parlare. Saluto Filippo Aureggi oggi in regia. L'alpino non c'è, dov'è? Chissà, arriva? Boh. No, oggi c'è Filippo Aureggi con noi fino alle 9. Saluto anche Miriam Lucchetti in redazione. Siamo tutti pronti qui a parlare di che cosa? Vabbè, ovviamente la Sicilia, ma se volete anche Please Relax, Mario Monti. Non so che effetto faccia sentire la voce di Mario Monti a Matteo Salvini, che saluto, della Lega, segretario della Lega in Lombardia. Buongiorno Salvini. Buongiorno, buongiorno. Si rilassa con questa voce di Monti, sì. Vabbè, Milano alle 6:34 della mattina è stupenda, quindi neanche Monti riesce a guastarmi la mattinata, anche se sono in macchina, mi devo bere uno yogurt e spero che non mi rimanga sullo stomaco. Accidenti, ma anche alle 5 del mattino è stupenda questa, se lo vuole sapere. Saluto anche Alessandro Giglioli, bentornato col suo piovo Norane, caporedattore all'Espresso. Giusto caporedattore, no? Di più. Giusto, per quello che può valere. Buongiorno a tutti. Beh, insomma, può valere. Adesso arrivano le regole di Beppe Grillo, Attenzione. Visto. Adesso tra poco arrivano le regole di Beppe Grillo, che ha detto ai giornalisti, anzi vabbè, io su Twitter lo chiamo Kim Jong Grill, ma mi prendono e mi dicono che io ce l'ho con Beppe Grillo. Ma no, è un modo così simpatico, è venuto così, peraltro non a me, l'ho copiato da qualcuno, ma è diventato a mio modo di vedere straordinario. Kim Jong Grill è così, e ha dettato le regole per i giornalisti, come ci dobbiamo chiamare, come dobbiamo essere chiamati. Grillini è vietatissimo, ecco, per esempio Grillini è vietatissimo, ma comunque ne parleremo tra poco. Vi vogliamo far sentire la voce di Crocetta, Rosario Crocetta, il neo governatore della Sicilia, anche se con chi si alleerà, boh, non si sa, non si capisce. Io sono veramente rivoluzionario, non faccio come Grillo che blatera una rivoluzione che non sa fare. Io la rivoluzione la farò, e se no, dovesse andare male si va a votare. Eccolo qui, se dovesse andare male si va a votare. Matteo Salvini, Alessandro Giglioli. Salvini, allora, dal punto di vista lombardo e della Lega, come giudica il voto in Sicilia? E anche un Crocetta che dice, se non si dovessero trovare le alleanze si va a votare. Ma riflessione numero uno: il problema della Sicilia è l'uso dei quattrini. In Sicilia si tengono il 95% dell'IRPEF e delle tasse prodotte in loco, oltre a tutti i contributi che arrivano da Roma. Chiunque vinca, quindi Crocetta in questo caso, che tagli un po' di spese e di sprechi, perché Radio 24 sulla Sicilia ne racconta di tutto e di più. Il PD ha governato fino all'altro ieri con Lombardo, quindi la rivoluzione speriamo. Anche pare che Crocetta l'abbia promesso. In un'intervista a Repubblica dice: taglierò consulenze, caccerò manager. Sa cosa ha detto come prima cosa? Ha fatto anche un nome, non lo so. Appena arrivo, il primo giorno, caccio via Ludovico Albert, che è il dirigente della formazione della regione siciliana, e con lui tutti gli Albertini. Non si sa, ce l'ha con questo signore. Comunque, vuoi cacciare delle persone appena arriva. Detto questo, il fatto che il 53% della gente non abbia votato significa che proprio l'insofferenza è tanta, neanche Grillo ha preso quei voti. E quindi io da segretario della Lega in Lombardia che va a votare entro 2 o 3 mesi al massimo, a questo 50% di siciliani, che può essere il 50% di lombardi, vado a parlando appunto di genitori separati, di trasporto per disabili, di associazioni sportive, eccetera, eccetera. Quindi è una lezione utile. Una lezione utile. Più del 50% non ha votato, Alessandro Giglioli. È questo il dato fondamentale, al di là di chi ha vinto le alleanze, Beppe Grillo? Eh sì, ha ragione Salvini. Dice, quando più di metà degli elettori non votano, mi dispiace per Crocetta, mi dispiace per i grillini, se posso usare questo termine. E non lo so, non lo so. E vabbè, io ci provo poi casomai. Casomai che cosa temi? Che ti aspettino sotto la redazione? No, io ho avuto già tanti scazzi con i grillini, ho tanti scazzi quotidiani con i militanti di tutti i partiti, di tutte le forze politiche, quindi non mi preoccupo. Diciamo che quel dato fondamentale comunque è il fatto che la democrazia è evidentemente in crisi, che l'offerta politica è quantitativamente enorme, c'erano decine di liste, ma contenutisticamente scarsa, e quindi più di metà degli elettori non va a votare, e il presidente eletto viene eletto di fatto con il 15% degli aventi diritto al voto. C'è un grosso problema di democrazia, ma che non riguarda soltanto la Sicilia. La Sicilia è sempre un caso particolare, lo sappiamo. Crocetta era brava, sicuramente una brava persona, un sindaco antimafia, uno che ha ottimi propositi. Voglio poi andare a vedere come si va a impattare contro la dura realtà siciliana, della quale però non sono un esperto, e quindi non voglio approfondire, perché non voglio dire sciocchezze. Sì. Quello che invece mi sembra palese è che c'è un grosso problema di contenuti, no? Un grosso problema di contenuti. In qualche modo perfino ragione Salvini quando dice vado a parlare dei miei contenuti, difficilmente lo ascolteranno i siciliani, però io... Lui parla ai lombardi. No, vabbè, per carità. La cosa che manca in questa offerta politica è che continuano a offrire agli elettori formule, formulette, no? Il PD che brinda perché ha vinto con l'UDC, fa una tristezza senza confini. Sì. Credo che... No, poi c'è la domanda Crocetta chiave che Attilio Bolzoni gli fa su Repubblica, fa: ma lei con chi si alleerà? La risposta di Crocetta: con i 5 milioni di siciliani. Lì consiglio giornalistico ad Attilio Bolzoni, che non ne ha bisogno, sarebbe ripetere ossessivamente la domanda finché non risponde, insomma, perché mi alleerò con i 5 milioni di siciliani, che cosa vuol dire? Adesso deve fare un'alleanza con qualcuno dei suoi rivali politici, i grillini, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, io Grillini l'ho detto, chiedo venia, hanno detto noi siamo zitelle acide, quindi con noi certo non si allera. Vogliamo sentire, no, prima di Giuliano Ferrara, Salvini hanno eletto anche Toti Lombardo, il figlio di Lombardo, dopo il Trota c'è il Tonno forse, no? Che fine ha fatto invece il Trota, lo sente più? Non ne abbiamo notizie da mesi, si è dimesso dall'incarico pubblico non prendendo più un euro di denaro pubblico, e quello che è stato un errore l'abbiamo scontato e l'abbiamo fortunatamente superato e non lo ricommetteremo in futuro, ma vedo che gli emuli purtroppo ci sono, a noi come Lega la lezione è servita, a qualcun altro evidentemente no. Il Toti. Allora sentiamo Giuliano Ferrara, che come sempre ha delle letture un po' sue, sulla vittoria di Beppe Grillo, che tutti dicono il Movimento 5 Stelle comunque si è affermato, nel senso ha ottenuto un'alta percentuale, anche se non è andata a cogliere tanti di quei voti di persone che sono rimaste a casa. Giuliano Ferrara. Ha vinto Crocetta, gli faccio tanti auguri, spero che gliele faccia anche Musumeci, che è arrivato secondo, e Grillo è arrivato terzo. Sono arrivato tre. Una volta i ciclisti dicevano sono arrivato uno nell'Italia analfabeta in bianco e nero, triste, malinconica, ma anche molto bella degli anni 50. Adesso c'è Grillo che esulta e dice sono arrivato tre. È una cosa che mi fa scompisciare da ridere. Allora, scompisciare da ridere. Matteo Salvini qui è arrivato dall'ufficio stampa 5 Stelle di Milano, tra l'altro, quindi in Lombardia, il glossario di come ci si deve comportare con i giornalisti. È corretto riferirsi al Movimento 5 Stelle come una forza politica, agli eletti come portavoce. Chiamarli grillini è scorretto e anche offensivo, in quanto riduttivo e verticistico. Grillo è il megafono al nostro servizio, noi siamo attivisti, non grillini. Ha preso nota Salvini? Se per caso deve avere a che fare con loro, è così, Io sono contento che abbiano eletti, così almeno dimostrano la loro capacità di fare o la loro incapacità di fare. Attenzione, eletti portavoce, che gli eletti sì, si chiamano portavoce. Io come Lega dovessi farlo schizzinoso per tutto quello che si scrive e si dice della Lega sui giornali, allora sto qua a passare la mia giornata sui giornali. Quello che, allora, sicuramente non vanno né derisi né bombati, voglio dire, dal nulla hanno preso il 18% in Sicilia, quindi ci sono. Quello che non mi convince dal loro punto di vista è che io, ad esempio, da milanese, da lombardo, non ho mai avuto un confronto. Io che come Lega sui temi concreti sono a favore, ad esempio, della legalizzazione e tassazione della prostituzione. Non ho mai avuto un confronto agli aiuti ai padri separati, non so cosa ne pensano. Kim Jong non mi dispiace come appellativo, perché c'è una concezione della democrazia particolare, non c'è un dibattito, c'è solo un comizio a senso unico su internet, però la vita politica non è che comincia e finisce in internet, quindi massimo rispetto per chi lo vota. Sì. Io in Lombardia penso che avranno meno successo, perché la legge elettorale poi in Lombardia è diversa. Sì. Lombardia vincerà il candidato presidente che piglia un voto più di tutti gli altri, quindi al 50% dei seggi e governa da solo. Ah, quindi scatta un premio di maggioranza. Scatta. Non dovrà allearsi con nessuno. Chi piglia un voto in più avrà il premio di maggioranza. Secco, diciamo. Vince tutto. Quindi, beh, questo è interessante, diciamo, come punto. Pone meno problemi del dopo, perché è un bel da dire che Crocetta mi alleo con 5 milioni di siciliani, sì, però i voti in consiglio regionale che non. No, ma è chiaro, si deve alleare con qualcuno. Però io vorrei chiedere. In Lombardia vince, piglia tutto chi prende un voto in più. Io penso che Roberto Maroni questo voto in più potrà prenderlo. Ah, attenzione, ecco, vabbè, giustamente si sbilancia per la Lega. Però Alessandro Giglioli, come riferirsi al Movimento 5 Stelle? Perché adesso avranno tutti gli occhi puntati, tutti i riflettori puntati, per carità, ma non c'è nessuna derisione, anche se già mi diranno che li prendo in giro, ma no, io sto leggendo delle cose che sono arrivate in redazione. Intanto è la fine dei partiti. Ieri Leo Luca Orlando, qui a Spoglio ancora aperto, ci ha detto, intanto è la fine dei partiti certificata, quella tradizionale, o no, è la morte dei partiti, il voto in Sicilia, quelli tradizionali che abbiamo conosciuto in questi anni? Allora, una cosa per volta. Giuliano Ferrara è, come sempre, un intelligentissimo che dice un mucchio di sciocchezze, perché non capire la rilevanza di una forza politica, di un partito che da zero arriva al 18%, vuol dire non capire assolutamente niente dei sommovimenti che avvengono nel paese reale. È un dato importante, almeno quanto, quasi quanto, le astensioni. Non capire questa cosa è, secondo me, posso dirlo senza mancare di rispetto, dai idioti politici. La seconda cosa è che quello che dice Orlando in modo approssimativo, cioè la fine dei partiti, vuol dire una cosa, secondo me, un pochino più profonda. È la fine di tutta la composizione, di tutta la formula, di tutto l'establishment che ha caratterizzato la politica italiana in tutta la cosiddetta seconda repubblica, cioè dal 93-94 ad oggi. Tutte le forze politiche di quel periodo si stanno scomponendo e si andranno ricomponendo sotto nuove formule. Il voto della Sicilia è ingannatorio sotto certi aspetti, perché in apparenza c'è una coalizione che ha vinto, quella tra PD e UDC. In realtà il dato che ci sta sotto è devastante: 52% di astensioni, 18% a Grillo. È un dato devastante in termini di fiducia, di accettazione dell'offerta politica che viene fatta dai partiti attuali, dalle forze politiche attuali. Su Grillo e i grillini sono una forza che sotto certi aspetti mi ricorda tutte le forze nascenti. Io mi ricordo quando nacque Forza Italia, quando nacque la Lega, che non erano abituate ad avere ceffoni e trattamenti dalla stampa, dai giornali, adesso c'è anche internet, e quindi avevano questo stesso atteggiamento. Mi ricordo benissimo così, quando quelli di Forza Italia mi scrivevano, io lavoravo all'Europeo, parlo del 93, che non dovevo chiamarli forzisti, ma dovevo chiamarli azzurri. Poi intanto continui a chiamare grillini quelli li fa. Ma sì, ma queste cose sono cose a cui si abitueranno. Alessandro Milan, devi guidare Ballarò, Giannino a porta e Cruciani a servizio pubblico, anche i giornalisti a casa. Faccia sapere ai politici che noi li odiamo e per i forconi ci stiamo trattando. Elsa, buongiorno. Per cortesia, cambiate la sigla di apertura della Miletti Binetti che offre il caffè, perché è un personaggio che proprio sarebbe meglio non menzionare. Primo. Secondo, dovete avere un piglio molto insistente con gli intervistati, specialmente gli uomini politici, consiglieri regionali, ai quali brutalmente dovete dire che sono degli sporchi egoisti, egocentrici, nulla facenti e molto tenenti. Questi politici, non parlo del governo attuale, parlo dei nostri vecchi politici, fanno schifo tutti, sono ragazzo di 30 anni. E non ne posso più di vedere queste porcate, grazie. Pronto? Pronto? Pronto? Vada a fan... Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Vabbè, bisognerebbe spiegare a qualcuno che una segreteria telefonica è una segreteria telefonica, non è che c'è uno lì che risponde. Comunque, Matteo Salvini, ecco, il clima è sempre questo. Noi non è che facciamo apposta, sono queste le telefonate che ci arrivano. Com'è? Vuol dire sporco, egoista, egocentrico, nulla facente e molto tenente. Ecco, così dovrei trattare tutte le volte i politici. Però adesso voglio farle andare di traverso lo yogurt. Mario Monti, ieri in Spagna, sull'accusa, sulla minaccia di Berlusconi di far cadere il tutto? Minacce di ritiro della fiducia a questo governo non possono essere fatte, non perché non possa essere ritirata la fiducia, ma perché non lo vivremmo come una minaccia. Hai capito Salvini? Perché ha detto noi non abbiamo chiesto niente, quindi ci volete mandare a casa? Ma noi non volevamo mica venirci qua. Posso non rispondere a Mario Monti, ma la signora della segreteria telefonica dice che i politici sono tutti ladri, nulla facenti. Ma c'è una buona politica. Io sono orgoglioso perché quando vado in giro per Milano mi fermo coi tramvieri, coi poliziotti, con gli spazzini, coi panettieri. C'è una buona politica. Io penso che non facciano uno sforzo enorme quelli che chiamano Radio 24 e mettendo il messaggio in segreteria telefonica e dicendo che è tutto uno schifo e tutto uguale. Non è vero. Li sfido, impegnatevi. Ma certo che non è così, ma ieri basta vedere anche Quinta Colonna e il programma di Paolo Del Debbio. Giglioli, tu lo vedi il programma di Del Debbio lunedì? Non ho la fortuna, no, non so in che orario sia, ma vedo no, poco dai, la TV. Quello su Rete 4 la sera che sta facendo molto successo, praticamente è la piazza che diventa protagonista e appena un politico parla si alzano in 10, basta, vergogna, ladri, ci avete rubato tutto. E questo è un po' il clima, Alessandro, anche dalle telefonate che arrivano. Però adesso voglio dire, va benissimo, adesso però basta. Nel senso che questo clima l'abbiamo visto, è sotto gli occhi di tutti, sta in piedi, ha una sua logica, perché questa classe politica uscente, ripeto, quella della Seconda Repubblica, ha dato uno spettacolo perfino peggiore di quello della Prima Repubblica. Però io da posizioni lontanissime da quelle di Salvini, su cui credo non siamo d'accordo neanche sulla scuola per cui ti siamo, credo che abbia ragione nel dire che sia un po' il momento di impegnarsi. Mm. Cioè, siccome proprio perché sta tutto crollando, questa cosa la stiamo facendo crollare tutti, questa seconda repubblica. Chi con l'attività politica, chi con l'attività intellettuale giornalistica, chi semplicemente con il voto o con il non voto. Sta finendo questa roba qua, è finita. Sta crollando tutto. Adesso, da domani, io credo che sia un po' il momento di impegnarsi su alcuni contenuti. Sì, anche cercare una politica e se uno la va a scovare... Ma anche con i propri comportamenti, se posso dirlo. Perché io credo che noi tutti dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo avere. E quindi soltanto con le nostre buone pratiche quotidiane, in politica come fuori dalla politica, online come offline... possiamo costruire un futuro migliore. Guarda che anch'io nel mio piccolo, non sono qua a far pubblicità, ma anche nel mio piccolo sto cercando di cominciare a impegnarmi per costruire qualcosa, perché adesso abbiamo una valanga di macerie. Ti butti in politica? Beh, si intende per politica candidarsi? No, si intende per politica far politica in modo costruttivo quotidianamente attraverso la propria attività, la società civile, certo. Matteo Salvini, però ecco una domanda su Monti, non è che si può illudere così, cioè Berlusconi davvero se lo vede che fa cadere Monti, che toglie la fiducia a Monti? Ma nel PDL vedo una gran confusione, lo vedo a livello nazionale, lo vedo a livello locale lombardo, quindi non mi permetto di alimentare le disgrazie altrui, spero che ne escano entro 3 o 4 giorni per capire che cosa succede. Penso che ci saranno diversi PDL che ognuno prenderà su sue diverse strade, ci sono anche delle brave persone che personalmente conosco con cui dialogherei volentieri, il PDL attuale no, penso che sia un soggetto ormai morto. Mm. Per quanto riguarda Monti, che ripeto è arrivato in una situazione difficile, quindi non sono di quelli che dicono che è tutta colpa di Monti, è qua da un anno, la politica prima ha fatto cose buone ma anche fallimenti, altrimenti non sarebbe mai arrivato. Secondo me è un personaggio, è un gruppo, è una concezione della cosa pubblica estremamente pericolosa da ventennio fascista. Addirittura da ventennio fascista, dai, no, non ci puoi... Cercando di spogliare qualsiasi, io di solito cavo le parole anche perché non ho fatto storia,

che lei per 2, 3, 4 sedute, quante sedute farà al massimo? No, quello, guardi che il bilancio saranno molto di più. Molto di non più. Penso che il bilancio venga fatto in 2 o 3 sedute. Peraltro lei è anche capogruppo dell'Italia dei Valori alla provincia di Bergamo. Sì, così, dove così. Ovviamente adesso in questi giorni stiamo valutando, probabilmente mi dimetterò. Perché c'è questa cosa, saranno incompatibili le due cariche? Ma incompatibili in teoria no. Ecco, però c'è uno statuto interno nostro come si chiama, il partito, dove si cerca di evitare le doppie cariche. Ecco. Comunque in ogni caso, anche se fosse, è chiaro che i gettoni che si prendono in provincia, quelli per legge non sarebbero comunque ammissibili uno e l'altro. Ecco, ah no, certo, lei prende lo stipendio della regione, no, quindi non fino a qualche anno fa invece sarebbero stati compatibili le due cose. Sì, sì. Invece perché adesso non cumula almeno, magari, no, adesso almeno non cumula i due stipendi. Però perché lei si dimetterebbe dalla provincia e tra 2 mesi decade anche dalla regione? Rischia di rimanere senza poltrone. Lei è un pazzo. Dobbiamo in Italia valutarlo. Queste cose non si fanno, lasciare le poltrone in Italia. No, vabbè, dobbiamo valutarlo all'interno del partito, però penso che l'orientamento sarà quello. Dobbiamo valutarlo sia col coordinatore, soprattutto col coordinatore regionale, con il mio capogruppo, e poi vedremo. Questo non è certamente. Comunque lei difende, per carità, ma io la ringrazio perché lei è qua a parlare, cioè lei difende il fatto e dice: io non, per carità, cosa devo fare? Non rubo nulla. Quelle 6 ore abbiamo lavorato con un'intensità pazzesca, che però sono sempre 6 ore. Poi ci riuniremo come consiglio per il bilancio, eccetera. E quindi quello è lo stipendio che devo fare. Questa è un po' la sua linea. No, ma poi lei calcoli che se ci sarà, come ci sarà sicuramente. Varie riunioni del Consiglio sia per il bilancio che per le leggi di recepimento, leggi regionali di recepimento dei provvedimenti del governo sui tagli alla spesa pubblica, ci saranno anche le commissioni, quindi non dico che saranno in 3 o 4 mesi saranno 1000 riunioni, comunque l'impegno c'è, anche no, perché poi bisogna considerare che uno che è appena arrivato, se deve prepararsi, impiega un attimino di più di uno che lì già deve studiare bilancio, un po' di più. Uno che l'ha già visto l'anno scorso, che sa già quali sono esattamente i meccanismi, ci deve mettere meno tempo di uno invece che è appena arrivato e quindi deve metterci un attimino in più. Stiamo parlando di un bilancio, mi pare, da 240 miliardi, una cosa del genere. Sì. Senta, ma un po' la lotteria, 24 miliardi, scusi. Non si sente un po' di aver vinto la lotteria? No, neanche per un secondo l'ha pensato. Dice, lei arriva. Per l'amor di Dio, io mi sono candidato 3 anni fa, ero il primo dei non eletti. Certo, è chiaro che l'aspirazione era ed è quella di entrare in consiglio regionale. Quindi se sono entrato non è che mi è dispiaciuto. Il mio collega ha fatto le sue valutazioni, ha dato le dimissioni. Senti, proprio in tempo, lei era lì che tifava a casa, dici dai dimettiti che mancano pochi giorni, no? Ma le aveva già date, non è che io ho tifato, quando io l'ho saputo le cose erano già fatte, lui si era già dimesso, me l'ha comunicato che l'aveva già fatto, quindi non è che aria si è respirata in quelle 6 ore per ora al Consiglio regionale? Cioè lei è arrivato... Com'è? Che aria si respirava in quelle 6 ore in consiglio regionale? È arrivato, c'era da fare la legge elettorale, si è lavorato, poi dimissioni e via. Ma io sinceramente pensavo che essendo il mio primo ingresso ovviamente in consiglio regionale, avendo programmato la discussione della nuova legge elettorale su 4 sedute, addirittura 4 giorni, dalle 10 di mattina alle 8 di sera, pensavo che si arrivasse quantomeno a lunedì, invece poi i vari emendamenti sono stati ritirati, se ne sono presentati altri un po' più riassuntivi, c'è stato l'accordo e quindi si è un po' più lungo. Senta, ma lei segue Twitter, Facebook, sulla rete, sa che in questi giorni sinceramente ho avuto poco tempo. Perché no, su Twitter lei è diventato un po' un caso, qualcuno dice ma come, cioè sembra proprio come dire Franco Spada è arrivato lì, grazie, dove devo firmare, me ne vado, assegno, faccio il giro del tavolo come diciamo noi bergamani. Ecco. Ma invece il giro del tavolo non l'ho fatto perché non capita a tutti la prima volta che entra in consiglio, la prima cosa che fa, approva la nuova legge elettorale, che ripeto, se fosse stato in tempi normali sicuramente non si faceva né in una seduta né in due né in tre. Ho capito, ma questo sì, ma sai, è un momento particolare, cioè Formigoni ha detto si deve approvare, si è trovata una maggioranza e si è fatto, però per questa importantissima legge elettorale, 50.000 euro diciamo quantificati così, per poi altre 2 o 3 riunioni, forse è un po' troppo. non due o tre riunioni, dopo ci sarà, ci sarà anche il bilancio e le altre leggi da approvare. Sì. D'altronde questi sono i meccanismi. Se fosse rimasto il collega, sarebbe successo allo stato, diciamo, sarebbe stato più o meno la stessa cosa. Senta, un'ultima cosa, lo stipendio regionale secondo lei è alto, basso, giusto? Ma non so ancora quant'è. Io 10.000 euro circa. L'unica cosa di cui non mi sono interessato ieri è proprio quella. E ieri sono stato tutto il giorno in regione. Però lei alla provincia invece quanto guadagna come consigliere? Come? Ma alla provincia ci sono dei gettoni per ogni presenza, quindi non si arriva a 1.000 euro al mese. 1.000 euro al mese? Beh, allora no, un po'. Non si arriva perché poi ci sono dei mesi tipo. Sono dei mesi in cui si fanno meno riunioni, quindi non. Beh, allora un po' la lotteria l'ha vinta, perché qua deve moltiplicare per 10. Ma si arriva diciamo su 10.000. Come io non so se si moltiplica, ripeto, non conosco quei dati e non mi sono ancora informato. Vedrò il primo cedolino che arriva. Però dico, lotteria, era una mia aspirazione perché mi sono presentato proprio per questo alle elezioni al 2010, allora ero arrivato secondo. E ce l'ha fatta proprio in extremis. Esatto. L'ultimo giorno, per sei ore ma intensissime. Intensissime. Io sì. La ringrazio ovviamente in bocca al lupo e anche per rimanere, se è la sua aspirazione al Consiglio alle prossime elezioni. Grazie per essere stato con noi, buona giornata ovviamente. Grazie a lei, buongiorno. Franco Spada, voglio ricordare, è consigliere della Regione Lombardia, dell'Italia dei Valori, subentrato sei ore prima dello scioglimento del Consiglio regionale al collega Sola che si era dimesso. Attualmente Franco Spada è anche capogruppo dell'Italia dei Valori alla provincia di Bergamo, ma insomma dovrà scegliere una delle due cariche, anche se compatibili, ma non cumulabili di stipendio, questo almeno chiariamolo, non prende due stipendi, certo da quasi 1.000 euro alla provincia, quando arriva forse, se va bene, a 1.000 euro, a 10.000 euro al Consiglio regionale della Lombardia. Sicilia, tra poco ne parliamo, 800 24 00 24, chiamateci. Allora, ha vinto secondo voi quelli che non hanno votato? Ha vinto Crocetta perché ha vinto Crocetta, ma chissà se riuscirà a fare le alleanze per governare. Ha vinto Beppe Grillo sul Movimento 5 Stelle perché hanno preso il 18%. Diteci la vostra tra poco. Sono le 8:33, allora vogliamo parlare delle elezioni in Sicilia. Rosario Crocetta ha vinto per l'alleanza PD-UDC. Certo, ora ci si chiede se la Sicilia sia governabile perché non ha la maggioranza, è al 30,7% davanti a Nello Musumeci 25,6%, poi Giancarlo Cancelleri, cioè del Movimento 5 Stelle 18,1% e infine Gianfranco Miccichè al 15,5%, vale a dire i quattro candidati che hanno preso più voti. La domanda che vi vogliamo fare è questa, 800 24 00 24: ha vinto secondo voi Crocetta? Ha vinto l'alta marea, la marea degli astensionisti, di coloro che non sono andati al voto, più della metà degli elettori? Ha vinto invece il Movimento 5 Stelle per questo exploit? Intanto lo vogliamo chiedere al senatore Giuseppe Lumia, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, senatore. Buongiorno. Del Partito Democratico siciliano, è contento Lumia oppure c'è poco da festeggiare vedendo che chissà se si riuscirà poi a governare? Guardi, Crocetta presidente ha attraversato la tempesta, uso questo termine per far capire la difficoltà che si ha oggi in Sicilia e in Italia, la tempesta dell'astensionismo e della stessa antipolitica. Perché ha vinto? Ha vinto perché questa tempesta l'ha attraversato con una grande idea progetto sulla Sicilia. Non ha messo al centro le alleanze, ha messo in centro un'idea progetto di rottura col passato e positivo sulle grandi opportunità che ha la Sicilia. È il primo presidente della regione progressista nella storia di questa terra, è il primo presidente chiaramente antimafia nella storia della Sicilia. E con la sua idea progetto naturalmente dovrà affrontare direttamente l'assemblea. Sì. Lui ha dichiarato senza accordi e senza inciuci. Però che vuol dire? Perché senatore Lumia, oggi in un'intervista a Repubblica Crocetta dice questo: con chi si alleerà? La domanda di Attilio Bolzoni, la risposta è: mi alleerò con i 5 milioni di siciliani. Mi scusi, ma è una non risposta. No, bisogna trovare la risposta, e la sto dicendo appunto. La risposta è semplice. Crocetta dice con l'idea progetto che lui ha con i siciliani in assemblea regionale sulla scelta di abolire e abbassare i costi della politica, cacciare via i consulenti, sul patto dei sindaci per ambientalizzare i comuni e utilizzare le risorse comunitarie, sul sostegno in modo moderno e avanzato all'agricoltura e al turismo. Penso che in assemblea regionale sei deputati senza accordi e senza inciuci con i partiti, è chiaro che li trova. Le dico di più, li troverà anche all'interno degli stessi grillini. Cioè non ha difficoltà Crocetta quando era sindaco di Gela, ha governato e ha fatto delle cose anche lì storiche senza avere una maggioranza in consiglio. Ma come fa a trovare gli accordi? Intanto non li chiami grillini, perché guardi che si arrabbiano. No. Senatore, tutto il mondo sono definiti così intanto gliene presento uno. Il Movimento 5 Stelle. Perché hanno mandato in Lombardia un glossario ai giornalisti dicendo che definirli grillini è un po' offensivo. Però me ne lasci presentare uno, che così glielo chiediamo. Riccardo Ricciardi, buongiorno, candidato per il Movimento 5 Stelle a Palermo. Lei però è entrato o no in consiglio regionale? Mi pare di capire di no. Non sono entrato per poco. Si arrabbia a definirla grillino, perché a Milano hanno mandato all'ordine dei giornalisti per diffondere a tutti i giornalisti questo glossario che grillini è offensivo. Ma grillini è un'invenzione alla fine della stampa, più che altro per scimmiottare questo fenomeno che ora si sta rivelando uno tsunami. Noi preferiamo identificarci come Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle. Sempre, ma evidentemente non basta. Ho capito, ma guardi che non è che dovete, adesso mi scusi, non è che dovete educare i giornalisti a come sei. Sa, grillini, no. Cioè, ci sono anche i titoli, le parole corte aiutano sui giornali, quindi... Per carità. Comunque, insomma, il senatore Lumia, che qui l'ascolta, dice che Crocetta sarebbe pronto anche a trovare alleanze sui temi anticasta, sui temi dei tagli, anche tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Poi però voi dite che non siete pronti a fare nessun tipo di accordo, mantenete questa linea? Noi facciamo alleanze nel senso stretto del termine, così come si paventa in questi ultimi giorni sia per il governo regionale sia per eventuali alleanze politiche a livello nazionale. Quindi l'alleanza in secondo termine noi non lo accettiamo. Quello che accettiamo è sicuramente una collaborazione su quelli che sono dei temi che noi riterremo essere validi ed essere oggetto appunto di supporto da parte nostra, perché se rientra tra quelli che noi abbiamo messo in programma quello che ci richiede i cittadini, perché no, dico, noi saremo i primi a appoggiare le idee buone. Ho capito, ma collaborazione, cioè se uno vuole la maggioranza dei consiglieri deve firmare degli accordi, immagino, cioè dire devo appoggiare questa maggioranza politica, come si fa in Parlamento, come non è che si può un provvedimento sì, un provvedimento no, se no un giorno rischia di cadere un governo, il giorno dopo rischia di essere confermato. Invece voi intendete muovervi così? Se è destino che debba cadere il governo, cadrà, ma certamente non cadrà per la nostra volontà politica, è perché lo vorranno i cittadini. Se i cittadini ritengono buona un'idea, noi la appoggeremo, anche se questa magari va contro quello che è l'idea del governo regionale. Non siamo noi a decidere. Insomma, mi sembra di capire, senatore Lumia, mi sembra di capire che confidare sull'alleanza con gli esponenti del Movimento 5 Stelle è un po' una chimera. Invece devo dirle che anche Crocetta non vuole fare alleanza. Sì. Ecco, allora, se no l'esperienza siciliana non ha insegnato niente. Ma come fa a avere la maggioranza per ogni singolo voto? E le spiego. Crocetta ha un'idea, progetto, ha un programma, lo presenta in assemblea e non la deve stupire, non ci vogliono né accordi scritti, questi sono i riti della vecchia politica. Di volta in volta su quelle questioni chiamerà l'assemblea a pronunciarsi. È la moderna politica che dobbiamo imparare a capire. Io sono d'accordo. Rischia di cadere ogni giorno, perché chi propone iniziative di innovazione, di rottura, di positivo governo non può non avere l'appoggio in assemblea regionale. Se invece Crocetta entra nel gioco della vecchia politica, accordi sotto accordi, allora tu mi dai, allora io ti do, questo è il modo per cadere. Questo è il modo per non governare. Il modo moderno per governare è presentarsi in assemblea, presentare progetti di innovazione e su quello sfidare l'assemblea e su quello sfidare anche il Movimento 5 Stelle. Quindi sono d'accordo con il rappresentante del Movimento 5 Stelle, niente alleanze secondo i riti della vecchia sì. politica, ma un dibattito di merito, il merito. Il merito non deve essere solo la novità nelle professioni, deve essere benissimo. Anche la novità nei provvedimenti che si portano in assemblea. Però, senatore Lubia, facciamo... Ed è sicuro che governerà di più con questo metodo che non con, che con i vecchi, che con i vecchi inciuci. Però facciamo un esempio pratico, senatore. Non so, c'è da approvare il taglio dei consiglieri, per dire. Immagino che in quel giorno il Movimento 5 Stelle dica sì, appoggiamo questo provvedimento e c'è la maggioranza. Il giorno dopo c'è da approvare il bilancio e in quel giorno il Movimento 5 Stelle no, dice no, questo bilancio non ci piace e quindi i nostri voti non li abbiamo. Va in minoranza subito, cioè è un rischio. Per niente, è un rischio concreto. No, perché ci saranno. Intanto voglio vedere se diranno no di fronte a un bilancio che abbatte i costi della politica, di fronte a un bilancio che pone al centro le attività produttive, se i parlamentari del Movimento 5 Stelle voteranno no. Ma se dovessero votare no, ci sono altri parlamentari, ci sono 90 parlamentari che dovranno valutare tutti insieme, senza steccati, il merito dei provvedimenti, che è il metodo nuovo della nuova politica, quella seria, sì. e su questo merito decidere come votare. Cioè, ogni giorno sicuro, che entra a Palazzo d'Orléans sì, deve cercare la sua allora, maggioranza di comporre. Non è ogni giorno, guardi, lei, allora, il governo non deve entrare ogni giorno a Palazzo d'Orléans. Il governo ha il 50-60% di attività che sono in capo all'esecutivo, che sono scelte che dipendono dalla Giunta come in tutti i governi del mondo e quindi gli compete, lì potrà fare tantissimo sì. se vuole innovare e cambiare. Poi c'è la parte legislativa, in quella parte legislativa che è una fetta importantissima ma non è il tutto dell'attività del governo, lì il merito, solo il merito e avanti il con merito. Il merito e vedrà che troverà più governabilità così che con i vecchi amenei. No, vabbè, ma certo, è un sistema, se vuole, anche innovativo, ma stiamo vedendo tanti cambiamenti nella politica, non è detto che non funzioni. Io ho solo il mio scetticismo, nel senso che non è facile su ogni provvedimento trovare delle maggioranze quando invece uno dall'altra parte ha una maggioranza solida e consolidata. Ecco, solo questo erano le perplessità. Fatemi sentire un ascoltatore, Carlo da Taranto, che ci ha chiamato. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Che ne pensa lei, Carlo, di quello che è successo in Sicilia? Sono felice. Di che Io cosa? Ho vissuto in Sicilia diversi e svariati anni, ho patito le angherie della partitocrazia. Voglio dire una sola cosa, non è vero che hanno vinto gli assenteisti, hanno vinto gli elettori siciliani buoni, quelli che hanno avuto il senso della partecipazione e della solidarietà e sono andati a votare. Beh, non hanno vinto gli assenteisti, però Carlo, sono stati tanti, ecco. Perché gli altri sono gli elettori tinti, dicono i siciliani, i tinti. Chi quelli sono? Che votano per interesse, per mafia, per scambio, per simpatia. Cioè sta dicendo amicizia. Che questa volta la mafia non ha votato, si no, sono rimasti a casa perché i partiti erano decotti e non potevano promettere niente. Ecco perché c'è stato questo tipo di presenza elettorale. Qui non è una sconfitta, è una vittoria al quadrato della Sicilia buona. Grazie Carlo. Eccoci qua, allora sono le 8:47 minuti, le elezioni in Sicilia. Vorrei sentire un altro ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Carlo da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Sono esterrefatto dall'aver appreso che si può governare la Sicilia con il 30% dei voti e con una maggioranza giornaliera o ad ogni mozione. Sì, ci ha spiegato proprio il senatore Lumia ci ha spiegato che non è proprio giornaliera, però trovando l'accordo su un progetto di volta in volta sì, con certo. con è chi, una cosa con abbastanza semplice, certo, mettendo insieme i grillini e PD e quant'altro, una cosa che vedremo nei prossimi mesi, sì, magari lei lo richiamerà il senatore Lumia, ci faremo quattro risate. Beh, per vedere che cosa succede. Il tema è se Berlusconi però mette d'accordo Musumeci e Micciché, la maggioranza doveva finire al PD? Bella domanda, la giro al senatore Lumia, ma prima mi faccia salutare, lo ringrazio, anche Giancarlo Cancelleri, l'abbiamo chiamato, buongiorno, eccolo qui il rappresentante del Movimento 5 Stelle, c'è il senatore Lumia che la sta ascoltando, il Partito Democratico.

Allora, vorrei capire se sono stati eletti, perché non ho visto i dati, quindi non so effettivamente gli eletti di quelle liste quali chi sono. C'è stata invece già un'altra intervista di Crocetta al Messaggero, gliela segnalo, perché qui dice, beh, se Grillo, il movimento di Grillo, il Movimento 5 Stelle, si vogliono prendere e assumere la responsabilità di far cadere tutto, lo dicano chiaramente. Sembra quasi un invito, come dire, ora c'è la rivoluzione, unitevi, cioè cercate di unitevi non come alleanze, ma cercate di appoggiare questa rivoluzione, altrimenti sarete responsabili anche voi del fatto che non si troverà questa governabilità. Ma noi non vogliamo far cadere nulla, però io l'ho ripetuto più volte durante la campagna elettorale e l'ho ripetuto più volte anche ieri, quando ho utilizzato quel termine, siamo xitelle acide, cioè nel senso non cerchiamo alleanze, non ci interessa, siamo pronti ad appoggiare tutte quelle idee buone, se avranno la capacità di proporne anche una sola, noi l'appoggeremo senza problemi. Il discorso è semplicemente che mi sembra che si stia già cominciando a fare troppa retorica invece che cominciare a lavorare. La Sicilia è 50 anni che è in crisi, non è in crisi da ora, ha bisogno di persone che devono cominciare a lavorare sul serio per risolvere veramente tutti i problemi che ci sono. L'ha sentito Beppe Grillo? Ha già avuto modo? Sì, ieri ci siamo scambiati un paio di messaggi, insomma è molto contento del risultato e ha già lanciato il comunicato per le politiche dell'anno prossimo. Sì, questo sì. Ma anche lei si arrabbia se la chiamiamo Grillino, ma questa cosa, ma perché vi arrabbiate se vi chiamiamo Grillino? Mica è un'offesa. Non è proprio edificante, è come se ma che vuol dire? Lo chiamate Piddino. Ma vabbè, mica è un insulto, cioè Grillini è una sintesi giornalistica per dire del Movimento 5 Stelle, cioè, quindi vabbè, però non si può dire, non è bello, non è simpatico, Grillini. No, va bene, io via non mi offendo, non sono queste le offese, chiaramente. Ci mancherebbe altro, appunto, questo dico. Vabbè, in bocca al lupo a tutti, grazie a Giancarlo Cancelleri, rappresentante del Movimento 5 Stelle, e al senatore Giuseppe Lumia del Partito Democratico per essere stato con noi, c'è stato anche Riccardo Ricciardi all'inizio sempre del Movimento 5 Stelle. Ci fermiamo dalla redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, un saluto insieme a Filippa Oreggi in regia, l'appuntamento a domani alle 6.30. Sono Bianchi Oscar, Brescia, ho una bambina di quasi 5 anni, nasce con un'ipoacusia bilaterale parzialmente sorda per tutta la vita. Per un 2 o 3% che il governo Monti nell'arco di qualche mese adesso ha buttato fuori come legge nuova, mia figlia, che giustamente dovrebbe aver bisogno di tutto, si trova con i suoi 230 euro circa di pensione tolta, e tutti gli altri che per 40 anni hanno mangiato, io non so più cosa dire. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.